Fino alla fine dei miei sogni, la vita che tu agogni. Tu lavori duro per sostenere i tuoi bisogni. E il mondo non ti ama e passano questi giorni. Combatti per la fama, la gloria devo impormi. E ancora devo impormi. Devo impormi. Devo impormi. Perché Dio è come me. E ancora devo impormi. Devo impormi. Devo impormi. Perché Dio è come me. E ancora no, oh, yeah. Per quelli che sono come me, oh, vogliono di più, vogliono che la tua vita è meglio di così. Non può essere tutto qui, no. Vado oltre il mondo, i sogni. Brucio il cuore, brucio i giorni. Voglio i soldi, tanti soldi. Non ho niente per mai, voglio sempre di più e cerco guai. I soldi, la fama, la vita, puttana, la gloria, penso a te. Oh dimmi gloria se pensi a me. La vita sta di fetido, il futuro non ti pensa, non fa credito. Tuo fratello getta discredito, il sangue, la lotta, merito. Sì, il sole splende, per chi combatte non si arrende. Per chi crede non si vende, per chi va oltre la propria mente. Credo nei miei sogni, sono altro che i miei sogni. Troppo reale a dirsi oggi, mi corrompono come emoji. Non ho tempo per altri intoppi, non ho tempo per questi vecchi. Fuori classe come Messi, Potrico, MC Gotti. Odio la croce che porto, odio e non ho conforto. In questa vita tutto storto, un biglietto in aeroporto. Miami che mi aspetta, guardami io faccio il botto. La tipa che ti aspetta, ogni troia in ogni porto. No, per quelli che sono come me, vogliono di più, vogliono che la tua vita è meglio di così. Non può essere tutto qui. Vado oltre il mondo, i sogni. Brucio il cuore, brucio i giorni. Voglio i soldi, tanti soldi. Non ho niente per te. La vita facile, la vita money easy easy. Di cosa parlo? Monte Carlo, get busy. Io non ho niente e vivo dentro questa crisi. Ho troppe idee, lo so, ti mettono in crisi. Io in classe A, faccio rap, faccio disco dance. La classe A, amica, il mio nome è Ben. Io come Lussemburgo, domino come Asburgo. Rap in Europa, dega di Strasburgo. Ho progetti in testa ma no, sottovaluta. Questo tizio ti ucciderà, lui ti ruba pure l'anima. Non si stoppa e non si ferma, massacro sulla terra. Non ho bisogno di conferma, vivo dentro una caserma. La vita non accetta, la vita non aspetta. Devo cambiare adesso in fretta, non esiste la sconfitta. Amico mio ti prego ascolta, massiccio duro roccia. Io ancora non ho scelta, Invictus nella vetta. No,